per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza. Io sto per strada, a differenza di tanti altri politici. Insomma, noi vorremmo Saviano che ci desse una mano, come dire, che venisse un pochino a lavorare insieme a noi e non pontificare da lontano e soprattutto in qualche modo, tra virgolette, stare là come un orologio svizzero ogni volta che succede una cosa, tra virgolette, a godere, quasi a narrare che è una Napoli che non cambia. Questo è molto ingiusto, perché ogni giorno non è andato via da Napoli, ha scelto di restare, e non ci racconti la storiella che lui non può stare a Napoli perché è minacciato, perché guardi, ti assicuro, a Napoli c'è tanta gente che ogni giorno a Napoli, come in Sicilia, in Calabria, nel centro Italia, nel nord Italia, è minacciato quotidianamente e rimane sul territorio a rischiare la pelle. Quindi ognuno pensi di fare quello che vuole, ma non ci dia lezioni su come ci dobbiamo comportare, perché la lezione l'abbiamo dai cittadini. Quindi non fa nessun passo indietro rispetto alla dura presa di posizione che ha avuto nel suo post? Ma lei ha letto quello che ha scritto Saviano ieri e che sta scrivendo in questi giorni? Chieda a Saviano se fa un passo indietro e se comincia con un po' più di umiltà a vivere Napoli. Io non penso che non devo fare né un passo avanti né un passo indietro. Eccoci qua, 18-8 minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati, 800-24-0024, il vostro momento, buonasera da Alessio Maurizi e anche questa sera da Carlo Gabardini che è con noi. Buonasera, buonasera, praticamente è un anticipo del nuovo si può fare che inizia con domani. 4 giorni di ritardo rispetto esatto. All'inizio della programmazione, no, vabbè. Poi domani riprendiamo con il si può fare chiedo del scusa, weekend, con il scusa. Si può fare del weekend naturalmente 7.30 fino alle 10, poi la domenica dalle 8.30 fino alle 10. Cari ascoltatori, con noi, ma anche con Miriam Lucchetti, Matteo Ramelli, Claudia Schiattone, Giorgio De Luca in redazione, tanti e buoni, e Andrea, che non mi ricordo mai il cognome, poi ve lo dirò perché intanto perdo la memoria anch'io, un caro collega regista di Radio 24 in regia appunto. Oh, non ci siamo ancora ripresi dallo scontro epocale tra Grillo e Mentana. Che inizia un nuovo scontro. Inizia un nuovo affronto. Un affronto epocale. Siamo alla resa dei conti tra De Magistris e Saviano. Bah. Allora, andiamo per ordine. Dopo la sparatoria di qualche giorno fa, Saviano ha scritto su Repubblica parlando dei guai della città di Napoli. De Magistris si è scocciato e ha detto basta parlare male di Napoli, Saviano la deve finire in qualche modo. Adesso leggiamo anche quello che ha detto. Ha nel scritto suo un lunghissimo post in realtà. Ha detto varie cose, ha detto Napoli sta risorgendo, la solita questione della rinascita di Napoli, abbiamo interrotto il rapporto tra mafia e politica, Napoli dei beni comuni, Napoli del riscatto morale, Napoli autonoma, Napoli che rompe il sistema di rifiuti ed ecomafie, tutta una serie di cose. Saviano poi dice no, tu sei un populista perché non mi rispondi nel merito. Invece no, De Magistris risponde sul merito, addirittura dice e vanta tutti questi meriti, tutte queste cose che avrebbe fatto lui. Perché a questo post in realtà di De Magistris risponde Saviano con un altro lunghissimo post dove appunto, come dicevi tu, dice che De Magistris è semplicemente un populista. Va detto che De Magistris lo attacca tanto Saviano, nel senso che con le sue ragioni, dicendo noi stiamo cercando di cambiare la città, anzi dice la città è cambiata e tutte le volte che sta per cambiare o sembra cambiare arriva un post di Saviano che invece parla malissimo di Napoli, parla di nuovo della paranza, la paranza dei bambini, la paranza. Allora, e lui dice lo fai semplicemente per vendere più libri, questo dice De Magistris. Siccome la giuria popolare che vorrebbe Grillo alla radio la facciamo da sempre, allora ascoltatori stasera decidete voi naturalmente, voi soprattutto napoletani, perché qua bisogna parlare chiaro, cioè bisogna essere di Napoli, conoscere la realtà di Napoli, sapere come si sta a Napoli, si sta meglio di quando di prima che arrivasse De Magistris, si sta peggio, si sta uguale, c'è paura come dice Saviano. 800 24 00 24, sentiamo ancora De Magistris. Ogni giorno a Napoli, come in Sicilia, in Calabria, nel centro Italia, nel nord Italia, è minacciato quotidianamente e rimane sul territorio a rischiare la pelle. Quindi ognuno pensi di fare quello che vuole, ma non ci dia lezioni su come ci dobbiamo comportare, perché la lezione l'abbiamo dai cittadini. Ogni giorno per strada che ci criticano, ci pungono, ci sorreggono, ci sostengono, quando è il caso ci mandano anche a quel paese, ma noi sappiamo stare tra la gente. che alla fine poi l'accusa stringi che fa De Magistris a Saviano è questa: allora caro Saviano, vuoi vedere che sei nulla più che un personaggio divenuto suscettibile di valutazione economica e commerciale, un brand che si tira dietro una certa narrazione? Vuoi vedere che Saviano alla fine è un grande produttore economico? Che Saviano fa i soldi, fa fare i soldi, magari anche a chi lo utilizza, la Mondadori, Repubblica, eccetera, con i suoi libri, con i suoi articoli, parlando di Napoli. Va detto che in realtà è severissimo questa affermazione di De Magistris. Va però ricordato che il giorno prima, il 5, è stato Saviano forse ad aprire le danze quando gli hanno chiesto non è troppo severo con l'ex PM, e lui ha detto: potrà sembrare retorico, ma in questo momento chi invita a distogliere lo sguardo dalla realtà, direi quasi che mi fa paura quanto chi scende in strada per una stesa. Allora, sentiamo un altro protagonista della scena campana napoletana, il governatore De Luca, che però parla di tutt'altro. Ieri il dottor Burioni ha detto: non c'è un'emergenza meningite in Italia, non c'è un'emergenza meningite, lo dice il dottore Burioni, un esperto di questo, di virologia, però nonostante questo c'è tanta paura e De Luca annuncia vaccini gratis. Stiamo monitorando con estrema attenzione il problema meningite, ci siamo preparati per affrontare anche un'eventuale emergenza. Abbiamo deciso la distribuzione gratuita del vaccino quadrivalente, quindi quello che copre anche rispetto al ceppo più aggressivo di meningite, chi si vaccina, fino ai 18 anni. Questi percorsi di radicalizzazione oggi si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri da un lato, nel web, nella rete dall'altro. Ma certamente lavorare sulle carceri e lavorare sul web è uno dei compiti principali di questa attività di prevenzione alla quale gli esperti ci sollecitano. Che sono disposto a stare sotto solamente quando foto. Individuare questa minaccia non autorizza in alcun modo a fare equazioni improprie tra fenomeni migratori e minaccia terroristica, e tuttavia sappiamo bene che la vigilanza deve essere massima per il rischio che queste minacce si ripropongano. Questo era il Presidente del Consiglio Gentiloni. Noi ce l'abbiamo una piccola notizia. Va detto che in Italia l'intelligence fino ad oggi ha, a giudizio anche degli esperti, lavorato bene. Ci sono già le prime espulsioni quest'anno di sospetti affiliati a foreign fighters, eccetera. Un tunisino di 26 anni di Ravenna. Però noi abbiamo la notizia, la buona notizia, un classico si può fare. Il ministro della giustizia ha chiesto a un imam che è 34 anni, che è in Italia, Youssef Sbai, di tenere delle lezioni. Qui ci sarà qualcuno che sicuramente non sarà d'accordo, però è interessante, agli agenti di polizia penitenziaria per insegnargli a riconoscere un potenziale terrorista islamico in carcere. E vedremo, ne parleremo anche con questi imam più avanti, sentiremo come si fa tra l'altro a riconoscere un potenziale terrorista. 800 24 00 24, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma che razza di lavoro fai? Hai un contratto? O non l'hai avuto mai? Che razza di lavoro fai? Oh, intanto cominciano ad arrivare i primi sms al 349-238-6666. De Magistris dice la verità, Saviano ha rotto, vedremo, cari amici napoletani, da quale parte vi schierate, soprattutto intervenendo in diretta tra poco all'800 24 00 24. Però adesso parliamo di un'altra cosa. Ma che razza di lavoro fai, dice Bugo, in questa canzone. Il prossimo 11 gennaio la Corte Costituzionale esaminerà l'ammissibilità di 3 quesiti referendari per abolire il Jobs Act, il famoso Jobs Act. Il referendum è stato promosso dalla CGIL. Il secondo quesito mira in particolare ad eliminare il cosiddetto lavoro accessorio, quello pagato coi voucher da 10 euro, se non che notizia di qualche giorno fa, a Bologna lo SPI, sindacato pensionati della CGIL proprio, ha ammesso che i voucher loro stessi li usavano per pagare alcune prestazioni accessorie. E allora tutti si domandano: ma la CGIL sono diventati dei cattivoni, oppure vuoi vedere che i voucher non erano così malaccio? Così malaccio. Cioè, la domanda è: gli piacciono o non gli piacciono? Se esatto. Li usano, come mai li usano? Cerchiamo di capirlo con il segretario generale dello SPI CGIL dell'Emiliano Magna, proprio lui, Bruno Pizzica. Buonasera, grazie per essere qua. Buonasera. A buonasera. Voi. Allora, la domanda gliel'abbiamo già fatta. Sì. Siete dei cattivoni? Voi della CGIL? Posso fare una, sì. Una precisazione? Sì, certo. Diciamo preliminare. Certo. Che ha fatto notizia questa cosa su Bologna, su Emilia Romagna. Sì. Perché qui, insomma, il Corriere di Bologna si era fuori da questa cosa qua. Ma in realtà lo SPI, i collaboratori occasionali, sì, in tutta Italia li paga quel voucher, non è solo Bologna. Ah, ok, quindi lei dice: io vengo qua a spiegare, però è una cosa. Sì, quindi tu... a spiegare, ma insomma. Però peggio mi sento. Quasi peggio, però. Quasi si peggio. Sta dicendo che non sono solo i 50 di Bologna. No, voglio dire che non siamo noi i cattivi. Diciamo così. Mm. È una linea che lo SPI nazionale ha adottato in maniera formale da un anno, e in maniera molto, molto chiara, molto precisa, molto delimitata. Noi usiamo i voucher per remunerare persone pensionate, solo pensionati, sì, quindi nessun lavoratore attivo viene remunerato da noi con i voucher, che svolgono un'attività puramente occasionale, cioè sono quelle persone che lavorano 2-3 ore a settimana, che ci aprono una sede periferica una volta alla settimana o che ci danno una mano per campagne tipo il tesseramento per qualche giorno, e che oggi, sulla base della legislazione attuale, c'è un solo modo per appunto retribuirli, remunerarli, compensarli in modo legale, che è quello appunto del voucher. Mm. Quindi insomma non sono così tanto male questi voucher, possono servire in certe circostanze. Lei ha detto a un certo punto che non avevate alternative, che altrimenti bisognava ricorrere a prestazioni in nero, e questo chiaramente l'alternativa sarebbe o pagare in nero, ma questa è una cosa che non pratichiamo, non facciamo, rifiutiamo in via di principio, ovvero fare dei contratti, che però sarebbe assurdo fare un contratto per 2 ore, uno che viene 2 ore a settimana, tra l'altro non lo farebbe neanche la persona. Certo, ma infatti il motivo per cui i sostenitori dei voucher li hanno portati avanti è proprio questo, proprio per risolvere situazioni anche come queste. Io le voglio domandare però, se verrà approvato il quesito, se si andrà a votare, se verrà eliminato il voucher così come previsto dal Jobs Act, questo spingerà però allora che cosa? A andare lavoratori e aziende verso il sommerso? Verso il nero? No, ce l'ha appena detto. Io credo che, d'altra parte, lei saprà che i 3 referendum a cui facevate riferimento prima sono stati richiesti dalla CGIL a supporto della campagna per la definizione di una nuova carta dei valori del lavoro, un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. In quella carta, in quella proposta che è iscritta alla Commissione Lavoro della Camera, c'è la richiesta esplicita di una regolamentazione diversa per il lavoro occasionale. Cioè, però di fatto l'effetto lei lo sa, Pizzica. Se lei lo chiede a me quale debba essere questa regolamentazione. Ok, voi avete questa proposta, però di fatto quello che succede col referendum è che il referendum è solo abrogativo. E quindi... In Italia il referendum è abrogativo, è uno strumento abrogativo. Quindi viene chiesta l'abrogazione di questa norma in particolare, perché questa è stata una norma particolarmente abusata, cioè come un po' accade spesso nel nostro paese, è una norma che è diventata da strumento eccezionale di remunerazione per lavori, tipo quelli che ho detto io, occasionali, pensionati, studenti, eccetera, è diventata invece praticamente una delle delle vie principali del mercato del lavoro, no? Però giustamente, l'ultima norma che se n'è fatto, giustamente, dimostra, come, no? Come dice lei, in realtà il voucher non viene inventato con il Jobs Act, cioè già esistevano prima, ma attraverso il Jobs Act liberalizzazione, si consiglia l'abuso, stavo dicendo si consiglia l'abuso, ma mi sembra esagerato, esatto, c'è stata una liberalizzazione, no, stavo dicendo che il Jobs Act quasi si consiglia l'abuso di voucher, non è così ovviamente, no, però in realtà esistevano già prima. Quando i voucher sono stati a suo tempo istituiti, credo allora fosse Genere Damiano, che era il Ministero del Lavoro o qualcosa del genere, erano delimitati a quel tipo di prestazioni. Col Jobs Act sono state abolite tutte le altre forme possibili di regolamentazione del lavoro occasionale, è stato tutto orientato, questo mercato del lavoro, sui voucher. Ne è venuto fuori un uso assolutamente abnorme e sì, soprattutto è venuto fuori che i voucher vengono oggi utilizzati anche per lavori che non sono per niente occasionali. Ecco, allora faccio una precisazione anche. Io do qualche elemento, perché in effetti è così, cioè nascono i voucher per pensionati, appunto, per disoccupati da più di un anno, per studenti, poi studenti, c'è stata una progressiva liberalizzazione sotto il governo Renzi, io mi sono preso questo dato, i voucher sono passati dal 2013 a 24 milioni venduti a 121 milioni nei primi 10 mesi del 2016, quindi c'è stato una 500% un'esplosione. E perché poi il Jobs Act ha previsto anche questa liberalizzazione, quindi via liberi tutti. Però, quindi, diciamo, nella versione originaria i voucher, come li utilizzate voi, per esempio, per i pensionati, secondo lei sono ammissibili, sono anche utili? Nella versione originaria non l'avevamo contestata, abbiamo contestato nella versione che deriva dal Jobs Act. Infatti, i referendum sono contro il Jobs Act, come dice lei, no? Diceva all'inizio. Quindi contro l'abuso che ne è derivato. Poi che il lavoro occasionale esiste, debba trovare una modalità per evitare la remunerazione in nero e quindi per portarlo, quindi la remunerazione legale. Questo è un però il ministro Poletti aveva annunciato una riforma di questi voucher. Non basterebbe questo a disinnescare il referendum? Lo chiede a me, io le dico che se il ministro Poletti propone una riforma e poi aspetta a lui proporla quando lui è il governo o il Parlamento, insomma. Io penso che dobbiamo andare a vedere che tipo di riforma si tratta e se risolve il problema dell'abuso, credo che possa essere utile. Cioè, non è. Credo quando abbiamo indetto il referendum, questo sui voucher, ma anche gli altri, non è che siamo affezionati alla forma referendum. No, però il segretario del suo sindacato, la Camusso, ha usato una parola pesante per definire i voucher. Sì, questo sono d'accordo. Ha detto con lei, pizzini, cioè un messaggio mafioso. No, ma infatti era su quello in realtà la domanda, nel senso che quello che ci chiedevamo, intanto per capire da questa notizia, perché non è che siamo interessati a dire li usate anche voi i voucher, se è l'unico modo per pagare va bene anche usare il voucher, però quello che ci chiedevamo è attraverso questo modo di pagare, in qualche modo avvallate l'idea che i voucher servono per coprire una parte di cosiddetto sommerso, ovviamente solamente nel caso che uno lavora 2 ore alla settimana per aprire una sede, però almeno questo si può dire, che quindi avvallate il fatto che i voucher sono utili, poi non ne volete un abuso, giusto? Guardi, se lei lo chiede a me, io sono segretario regionale dei pensionati dell'Emilia Romagna, quindi il mio incarico è molto preciso, non sono il segretario generale della CGIL nazionale. Lei adora i voucher, quindi... Giustamente. No, non li adoro. La mia opinione è che questa espressione pizzini sia stata un errore, lo dico senza infingimenti. Per me, paragonare i voucher ai pizzini è una cosa che non va bene. Cioè, più che un errore, lei non lo condivide. Non lo condivido perché è una modalità per inasprire, diciamo, con un confronto che già è abbastanza alto, non ha bisogno di essere inasprito, questa vicenda lo dimostra, che noi siamo adesso. Sono 2 giorni che per il mio telefono squilla in continuazione e ne avrei fatto a meno, dico la verità. Per 50 voucher. Per 50 voucher che remunerano 100 euro al mese massimo a una cinquantina di pensionati volontari, persone di 70 anni che vanno ad aiutare altri pensionati. Ma perché secondo lei la Camusso ha usato quell'espressione? Forse per incentivare la raccolta delle firme, sono stati raccolti 3 milioni di firme, quindi c'è una spinta. Sono state raccolte prima, molte delle firme sono state raccolte da noi, dello SPI, devo dire, e ne abbiamo raccolte moltissime, penso che questo sia un dato politico. Cioè battaglia politica quella della Camusso. È evidente che partendo una campagna elettorale, che formalmente sosteniamo poi da soli, no? Il referendum abbiamo indetti solo come CGL, senza nessuna altra associazione che abbia aderito, insomma. è evidente che la campagna elettorale ha le logiche della campagna elettorale, io la vedo un po' così questa espressione. Sì. Dopodiché che... Senta, le voglio chiedere un'ultima cosa però, perché il referendum, sono state raccolte 3 milioni di firme, evidentemente ci sono tanti italiani che sono d'accordo con abolire il Jobs Act, a parte il voucher, il resto... Non abolisco il Jobs Act tutto, il referendum sono sul voucher, sugli appalti. Esatto. E sull'articolo 18, non sul Jobs Act. Cioè, quindi quale parte? Quale parte abolire del tutto i voucher, quindi? Il referendum è abrogativo della norma che prevede i voucher nella versione Jobs Act, quindi una versione liberalizzata. E poi questi 50 come li si paga, quindi? Questi 50... io se lo chiedo a me adesso non lo so come li si paga, bisogna però, abbiamo posto il tema che comunque la regolamentazione va trovata. Secondo me se si trova prima del referendum sarà di meglio. Forse sì. A fare il referendum per forza, anche perché insomma i referendum sono sempre anche un rischio per certi aspetti. Vabbè, vedremo, anche perché deve ancora essere approvato dalla Corte Costituzionale tra qualche giorno, staremo a vedere. Intanto grazie al segretario dello SPI CGIL Pizzica dell'Emilia Romagna. Grazie. Buona serata, buon anno anche a lei. Siamo a Befana, sono gli ultimi giorni, poi smettiamo di dare buon anno. 800 24 00 24 vi ha convinto in qualche modo questa, come dire, giustificazione, autodifesa in qualche modo del segretario dello SPI CGIL sulla questione dell'utilizzo dei voucher da parte del CGIL, il principale sindacato, che li vuole abolire ma li usa allo stesso tempo. O andiamo sulla borsa, chiedo un cenno alla regia, o andiamo agli ascoltatori. Andiamo sulla borsa, poi gli ascoltatori tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma che razza di lavoro fai? E allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, adesso tocca a voi, tocca a voi. Ci sono già un po' di messaggi, però sulla vicenda Saviano De Magistris. C'è un ascoltatore che su WhatsApp dice: io abito a Napoli, in collina al Vomero, sembra di stare in Svizzera, problemi zero come le grandi città, basta stare lontani con occhi sempre aperti nelle zone di periferia. Antonio da Napoli. Beh, certo, il Vomero credo che sia il quartiere più ricchi, più chic di Napoli, però, caro Antonio, ci sono anche i suoi concittadini che stanno in periferia. Fa parte, direi, della risposta di Saviano, che dice De Magistris guarda solo al centro città. Esatto. Va bene, allora andiamo con Gabriele che ci chiama dalla provincia di Varese. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, un saluto a tutti. Chiamavo per il discorso dei voucher con il quale avete parlato con i sindacalisti della CGIL. Allora, scusate, sono un po' emozionato la prima volta che vi telefono. Comunque, pensavo fosse emozionato perché era arrivato il voucher. Come, scusi? Pensavo fosse emozionato perché hai pagato con i voucher. No, io mia moglie siamo degli educatori di origine, abbiamo aperto due imprese di pulizie perché siamo meglio così che non a curare i bambini, ma questo è un altro discorso. Noi paghiamo per un 6 ore a settimana circa un paio di persone, quando mia moglie non sta bene, che principalmente lavora lei, ma anch'io, e poi magari quando andiamo in vacanza utilizziamo i voucher. Sì, sì. Come potremmo fare se non ci fossero? Anche perché un voucher, ricordo, che fa in modo che il lavoratore percepisca 7,50 euro netti all'ora. Certo. Mentre invece, essendo dipendente, la paga percepita, nonostante i contributi, ferie, così, è notevolmente inferiore, per esempio. Cioè, facciamo l'esempio. Lei paga 10 euro di voucher, 2,50 euro, esatto, vanno all'INAIL, all'INPS, esatto, per i contributi, e al lavoratore restano 7,50 euro. Come, esatto, diciamo, fosse un dipendente, avrebbe una quota minore di netta e avrebbe più contributi. Ma questo lo sappiamo. Vabbè, fa parte della logica dei voucher. Lei li usa, però non ho capito bene. Per in che caso? Cioè, per fare lavorare delle persone nella sua impresa di pulizia, ho capito bene? No. Sì, esatto. Ok. Esatto. Per qualche... Stiamo parlando di un 4-6 ore a settimana al massimo per due persone. Qualche ora. Noi l'abbiamo chiesto, infatti, l'abbiamo chiesto al sindacalista che ci ha dato in realtà la stessa risposta, ovvero ha detto: io vorrei che prima si creasse una nuova norma, che inventasse una nuova norma, poi aboliamo i voucher e introduciamo questa nuova norma, perché lui stesso dice: io questi lavoratori, sì, se no non ho un altro modo per pagarli e rischiano, esatto, di tornare nel sommerso. Quindi la sua domanda è più che lecita. E anche perché se io assumessi qualcuno, uscire dal regime forfettario, dovrei pagare molte più tasse, dovrei raddoppiare il mio fatturato per portare a casa qualcosa. Certo, e infatti tutti di solito scelgono di pagare in nero, poi, quindi scusi, la sua domanda è molto precisa. Un'ultima cosa, e poi non vi disturbo più. Prego. Volevo solo ricordare questo numero. I voucher nel 2015, se non ricordo male, rappresentano lo 0,23% del costo del lavoro in Italia. Ma temo che non sia più così, perché nel 2016 siamo arrivati a 125 milioni di voucher. Sono aumentati, suppongo, ma... che... stiano scalando. Te la do io la cifra, te la do io la. Il totale dei voucher in Italia corrisponde a circa 40.000 posti di lavoro su alcuni milioni di occupati o di disoccupati, quindi questo è un po' il parametro. Grazie Gabriele, buona serata. Ah, però abbiamo i primi ascoltatori che chiamano da Napoli. Maurizio, vai Maurizio. Salve. Ciao, buonasera. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Niente, Saviano o De Magistris? Ma De Magistris sicuramente, è facile scrivere, criticare senza proporre, mi sembra molto facile. De Magistris ha cambiato letteralmente la faccia della mia città, io sono contentissimo. Quindi sei d'accordo col sindaco quando dice che ha risolto la questione dei rifiuti, ha rotto il rapporto tra mafia e politica? La differenza tra me e Saviano, forse che Saviano è di Caserta, di Casaltitrice, se non sbaglio, non vive nella città di Napoli, quindi... parla per sentito dire, probabilmente. Io la vivo, la mia città è cambiata tantissimo. Però dice un ascoltatore, scusami Maurizio, dice un ascoltatore, che scrive un SMS, ma se in pieno giorno sparano a 4 ambulanti, ci sarà un problema? Certo, il problema è di tutte le grandi metropoli in questi ultimi anni. Non si spara soltanto a Napoli, insomma, sfogliamo poi i giornali, leggiamo le cronache di Milano, di Padova e di altre città. Cioè, a Napoli succede un po' più spesso, però, mi sembra. Ma questo no, sì. Ma Napoli, il problema è che Napoli, cioè, a Napoli non c'è più, secondo te una notizia. Ascolta, scusa se ti interrompo. A Napoli fa più notizie negative da sempre, lo sappiamo, no? A Napoli dagli alla droga, dagli questo, dagli alla camorra, dagli questo. Vogliamo smetterla una volta per tutte. Il Magista ha restituito un'immagine alla nostra città, ci stiamo risollevando da problematiche che andavano via avanti da decenni ormai. Ma che cosa pensano? Che cosa pensano quindi, secondo te, i napoletani di Saviano? I napoletani di Saviano pensano che uno che gli conviene scrivere cose negative su Napoli perché vende di più, probabilmente. Scrivere qualcosa in positivo probabilmente venderebbe di meno. Quindi la posizione di De Magistris è condivisa, secondo te? È condivisa. Poi io lavoro nell'ambito culturale, sono un insegnante, sono musicista, e ti assicuro che la cultura fa bene alle grandi. Mi fai un esempio, Maurizio, poi ci salutiamo, di una cosa che è migliorata con De Magistris? L'affluenza dei turisti. Questo permette di ricreare quel clima di cultura, quel clima di rivalutazione del centro storico della città di Napoli. Però magari sono cose che si vivono solo nel centro, magari in periferia. In periferia, estreme di tutte le grandi metropoli hanno i problemi di tutte le grandi città, non solo della nostra città. Va bene, Maurizio, grazie, buona serata. Il turismo. Grazie mille. Lo dice anche De Magistris, ci sono delle cifre, in effetti c'è stato un aumento, poi quanto questo si riverberi su tutta la città è da vedere. Michele è sempre da Napoli, buonasera. Buonasera. Buonasera. Saviano o De Magistris? Saviano. Saviano. Perché? Allora, di quello che ha detto il signor Maurizio, che ho sentito in questo momento, non risulta verità. Non risulta verità. Ci dica tutto. Perché non risulta? L'aumento dei turisti non è... I turisti vengono per San Gregorio Armeno e tutti i beni culturali che abbiamo a Napoli. Vabbè, vengono. L'importante è che vengano. Sì, ma non è tutte stato. Non è stato il sindaco di Napoli a portarlo. No, ma non è importante chi sia stato. La domanda è: ce n'è di più o di meno di 5 anni fa? No, allora io vi dico solo di meno, perché è arrivato a un certo punto. Le strade del centro antico di Napoli, tranne le strade principali, automaticamente sono abbandonate. Cioè, a parte le strade del centro, il resto è tutto abbandonato. Il centro antico di Napoli, cioè le strade principali che vedete, 3-4 persone che prendono l'immondizia, che fanno, e poi i vicoli, le strade, le persone che stanno nei vicoli muoiono. Però De Magistris, le persone che stanno nei vicoli le intende i napoletani. De Magistris parla e porta anche dei numeri, in realtà parla di numeri più alti di turisti. Quindi lei invece... i turisti non l'ha portato il sindaco di Napoli. Ma non importa chi li ha portati, ci stiamo chiedendo se ce n'è di più o no. Sapete perché? Perché il centro antico è stato sempre una cultura generale per tutti. automaticamente cioè abbiamo dei beni culturali, ogni 10 metri c'è una chiesa. Sì, ma questi ce li avevate anche 5 anni fa, non è che sono arrivati adesso. Sì, quindi capito, se i numeri sono in ascesa. Io sto portando che le strade sono dissestate. Sì. Automaticamente, certo. Però lei ha detto, Michele, che si muore nei vicoli di Nacchi. Chi è che muore? Sì. Allora voi fate una cosa: fate un reportage nei vicoli e vedete che cosa succede. Ma provi a dirmelo un attimino, lei cosa succede nei vicoli di Napoli? E vi sto dicendo che è arrivato a un certo punto: non c'è abbandono, non c'è niente. Si parla solo delle strade principali, dei bar, delle pizzerie. Delle persone che vengono, ma e questa è colpa di De Magistris? È tutta pubblicità, arrivata a un certo punto. Se le strade sono dispestate, così rimangono. Se i palazzi cadono, così rimangono. Non succede niente. Vabbè, questo è un altro punto di vista, diversissimo da quello di prima. I vicoli di Napoli decadono, e le buche tutto. Nelle strade, però ci sono in tante altre città, eccetera, diciamo. Eccetera. Quindi forse continuate, ascoltatori, a chiamare, soprattutto se chiamate da Napoli. Il dibattito non è nuovo, ma è sempre appassionante. 800 24 00 24. Oh, allora, che un pezzo della Costa Concordia, un pezzo di relitto, un pezzo di acciaio arrugginito possa trasformarsi in un tesoro, in qualche modo, in un tesoro quantomeno della memoria da mettere all'interno di un museo, il Museo del Mare di Genova, è un'idea che non trova tutti d'accordo. Per esempio, la Costa Crociera è contraria, il sindaco del Giglio dice dobbiamo pensare a idee meno macabre, però questa è l'idea e credo che l'idea sia della presidente del Museo Marittimi del Mediterraneo, Maria Profumo. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Buonasera. E devo dire che cioè, è un'idea interessante, perché qua si parla di coltivare una memoria, cioè di non dimenticare quello che è successo. Lei dice bisogna che questa vicenda della Concordia trovi spazio in un museo dove si coltiva anche la memoria di quello che è il mare, di quello che dà e toglie. In una sala del museo, in una però, sala del non, museo. Non di farci un museo apposta, esatto, cioè di dedicare una sala del museo al naufragio della Costa Concordia per non dimenticare. È questa la sua proposta, ce la spieghi esattamente in che cosa consiste? No, noi veramente, dunque, adesso siamo praticamente a 5 anni dall'evento tragico della Costa Concordia. E noi già a partire così dall'evento, quando si è deciso di fare un recupero perché venisse portato poi al porto di Genova per la demolizione, sì. Dato che noi siamo il più grande museo del Mediterraneo e marittimo del Mediterraneo e abbiamo tantissimi visitatori, ma soprattutto vogliamo, diciamo, che ci sia il ricordo di quelle che è la navigazione più importante in questo momento. Tra l'altro abbiamo proprio dedicato una mostra che abbiamo fatto sull'Andrea Doria al suo comandante Calamai, che non era mai stato in qualche modo, diciamo, riconosciuto come un grande comandante di nave proprio per l'evento che aveva colpito l'Andrea Doria. In quanti visitatori fa il museo, mi scusi, visto che ha detto? 200.000 all'anno. Beh, quindi una cifra di tutto sì, rispetto. Veramente sì. No, è un museo che però viene lei, da tutti che cosa molto in mente? Però il punto è questo. Sì, esatto. Cioè noi non è che volevamo un pezzo di ferro, noi abbiamo chiesto sia alla Costa Crociere subito, diciamo a partire da un anno dopo l'evento, poi abbiamo riprovato sia ai proprietari della Costa Crociere, al nuovo amministratore delegato, sia a quelli che, diciamo, Fincantieri che l'avevano costruita, sia a quelli che incominciavano a demolirle, Cantieri, San Giorgio, Mariotti, eccetera, eccetera, di avere un pezzo significativo che possa in qualche modo ricordare la Concordia, come una nave che peraltro era anche molto bella, molto significativa, molto importante, ma poteva essere, che so io, la plancia di comando, cioè quindi un punto, non un pezzo di ferro, certo, un elemento significativo, un pezzo simbolico in qualche modo, ecco, diciamo che potesse permettere di raccontare la storia, ma non tanto della tragedia, perché sappiamo benissimo, diciamo, tutti gli eventi anche, diciamo, molto delicati di questa tragedia, ma anche e soprattutto quello che è stato il grande valore del recupero e qui, e diciamo che è stato riconosciuto a livello mondiale come per il galleggiamento, come uno dei recuperi più interessanti anche dal punto di vista tecnologico, e quindi con più di 500 addetti delle maestranze che hanno lavorato in maniera esemplare. E quindi anche per raccontare quindi questa storia di recupero e poi anche di tutta la fase che è avvenuta nel porto di Genova, visto che noi siamo proprio in mezzo al porto di Genova, e oggi diciamo i demolitori però sono questa ship recycling che lavora, diciamo, certo, per finire tutto quanto. Allora nessuno, diciamo, tutti ci hanno ascoltato, ma un po' perché si vuole annullare una memoria tragica, noi pensiamo che non sia giusto. Che non sia giusto. Adesso veniamo alle obiezioni, facciamo una piccola pausa sul traffico, poi chiediamo anche agli ascoltatori 800 24 00 24 che ne pensano, però sappiamo già che la Costa, ci anticipi solo questo, la Costa non le vuol dare un pezzo, per quanto simbolico, della nave per metterla nel museo, vero? Ma non c'è stata più risposta dopo i nostri incontri ai massimi livelli, e oggi diciamo c'è solo un consorzio di demolitori a cui diciamo ci rivolgiamo ancora, perché non sappiamo più se ci sono anche pezzi significativi, perché il pezzo di ferro non ci interessa, francamente. Va bene, vediamo tra poco anche quali sono le obiezioni che vengono fatte da alcuni, tipo il sindaco del Giglio, preoccupato anche lui per ricadute negative sul turismo, e la Costa naturalmente che non vuole una pubblicità negativa a futura legata, memoria, diciamo, esatto, legata alla sua immagine. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, di nuovo con Maria Profumo, presidente del Museo dei Marittimi del Mediterraneo. Tra quelli che sono contrari, non si può dire che non abbia vissuto direttamente tutta la vicenda, il sindaco dell'Isola del Giglio dice: è un'idea macabra quella di qualche modo in un museo celebrare, ricordare anche con un pezzo proprio fisico, materiale, comunque dare spazio a questa memoria sulla Concordia. Occupiamoci di fare delle proposte più costruttive, più positive, dice, tipo come gli italiani sono stati in grado di rimettere la nave in linea di galleggiamento, cioè uscire da questo disastro, che ci sta, però insomma non è che poi dico ci possiamo dimenticare quello che è successo prima, ma questo lo faccio dire a lei. Cosa risponde a questa obiezione? Chi forse è preoccupato anche per il turismo, per un autogol dal punto di vista del turismo in Italia? Ma io sono in parte d'accordo, perché io penso che quando si vuole ricordare una nave importante come la Concordia si può mettere in evidenza tutti gli aspetti anche molto interessanti dal punto di vista tecnologico di chi l'ha costruita, la Fincantieri della Costa Concordia, e soprattutto appunto mettere in evidenza il grande lavoro che c'è stato di recupero, che diciamo diretto da questo Nicola Sloan di Città del Capo, che è stato riconosciuto a livello mondiale come uno dei più grossi esperti per il recupero, per il galleggiamento e quindi anche per il trasporto. Ci sono immagini bellissime che è bene che restino nella memoria, quindi non vuole essere, cioè, uno un non esclude l'altro, no, ma nel senso che noi proprio con questa mostra dell'Andrea Dori abbiamo dimostrato, e a tutti sta piacendo moltissimo, quindi noi poi probabilmente la terremo questa mostra anche come parte degli allestimenti. Noi non abbiamo tanto rammentato di chi è la colpa, eccetera, ma anche la bellezza di questa nave e quello che hanno lavorato in quel caso per il salvataggio di tutti i passeggeri, le maestranze che in quel momento erano, diciamo, su quella nave. In questo caso invece potremmo ricordare soprattutto il grande lavoro delle maestranze che hanno lavorato poi per il recupero e il galleggiamento. Certo, guardi, io le dico, io personalmente sono molto d'accordo con l'idea invece del museo, e forse per un motivo anche più stupido, perché penso che tutte le volte che si prendono delle navi, ma anche dei traghetti piccolini, penso quello che fa l'Aveno Intra, per dire, proprio dei traghetti piccoli, di solito quando andiamo a pigliare queste navi vediamo le scialuppe di salvataggio e pensiamo che siano in realtà degli abbellimenti. Quindi secondo me è importante ricordarci che le navi possono anche affondare, che in realtà nella storia e fino anche all'altro ieri e tutt'oggi le navi affondano, cioè che è anche pericoloso il mare, il lago, qualunque corso d'acqua. Quindi io penso che sia veramente molto importante anche dal punto di vista educativo per chi va a un museo ricordarsi anche che comunque le barche, la maestria di costruire una barca che non affonda è perché in realtà il rischio è che possa affondare. Quindi io la cosa che le voglio chiedere è: secondo lei perché non rispondono? La prima cosa che le vorrei chiedere, e la seconda è: avete bisogno di un permesso o comunque voi potete fare una mostra permanente sulla Concordia anche senza il permesso della Costa? Noi possiamo benissimo farlo, ma normalmente quando noi facciamo le mostre chiediamo, diciamo, no, questo mi è chiaro, gli archivi eccetera, ma in questo caso volendo avere, diciamo, un pezzo significativo della nave, è ovvio che dovevamo, noi, il nostro direttore Campodonico aveva chiesto anche di poterla visitare nel momento in cui è arrivata al porto di Genova per scegliere quali erano i pezzi, quindi abbiamo scritto, anche oltre che incontrare abbiamo anche scritto, di fatto, diciamo, credo erroneamente, perché io penso che la Costa Crociere forse giustamente possa aver paura di una, diciamo, pubblicità negativa, però nel modo come noi facciamo le mostre, e forse se venisse un pochino più a conoscere il nostro museo si renderebbe conto che non è quello che vogliamo fare, non è una pubblicità negativa ma anzi una pubblicità anche positiva di quanto, diciamo, la Costa Crociere sta facendo. Quindi, diciamo, no, noi non siamo un museo, diciamo, siamo un museo molto interattivo e molto che guarda anche al futuro, quindi vuol far capire anche quelle che sono, diciamo, le capacità tecnologiche, diciamo, che ci sono nel nostro paese e che ci sono anche nei cantieri, non solo liguri, ecco. Ma quindi qual è il problema? Nel senso che io concordo in pieno in quello che dice. Secondo lei perché loro continuano? L'abbiamo presentato, però diciamo, ormai tra l'altro io temo che sia troppo tardi. I significativi siano andati. Probabilmente ci sono da qualche parte, perché non credo che l'ultima parte della demolizione che ha in mano questo consorzio dei demolitori della Ship Recycling, non credo più che ci siano pezzi significativi, perché questi probabilmente li stanno riutilizzando o mettendo da qualche parte, immagino, perché le parti, diciamo, più importanti tecnologiche non credo che le abbiano distrutte. Tra l'altro, ecco, posso dire che quindi credo che è un appello che io faccio anche attraverso di voi, perché penso che ci sia ancora la possibilità per valorizzare questi elementi qui, ecco. E noi sposiamo l'appello, la memoria, ecco. Soprattutto io dico una cosa, credo che a questo punto, dopo tutto quello che è successo, dopo quanto diciamo questa cosa ha avuto un impatto sulla vita di tutti, non è una cosa privata della Costa Concordia, a parte le vittime che ci sono state, quindi che una decisione su questa possibilità di creare questo spazio all'interno del museo dedicato alla Costa Concordia dovrebbe prenderla qualcuno che non è esclusivamente solo la Costa Concordia. Chiaramente d'accordo, perché è una cosa che riguarda tutti. Noi intanto la ringraziamo. Grazie mille. Profumo. Ringrazio molto. Io mi chiamo Maria Paola Profumo. Maria Paola Profumo, va benissimo, diciamo anche il secondo giusto, nome. Giusto, chiediamo scusa. La memoria è importante anche dei nomi, giustamente, ci stiamo occupando di musei, è giusto. Luigi da Napoli, buonasera e benvenuto, prego. Sì, buonasera, volevo intervenire sulla querelle sindaco De Magistris Saviano. Con chi stai, ammesso che tu stia con qualcuno dei due? Ma in realtà io forse non sto con nessuno dei due, nel senso che preferisco stare giusto in mezzo e dare giusti meriti, ma anche i giusti demeriti ad entrambi. Saviano sicuramente è una lente di ingrandimento importante e formidabile sul piano nazionale. Per quanto riguarda il sindaco, insomma, qualche merito ce l'ha avuto, ma francamente da napoletano mi sento di dire che l'evoluzione, la rinascita della città è partita da molto prima del nostro sindaco. Ma secondo lei Saviano mette la lente di ingrandimento sempre su Napoli e sempre sulle cose negative? Beh, insomma, insomma è nato così, è un giornalista, non dimentichiamolo che è sempre stato un giornalista oltre che scrittore, ma nasce giornalista e quindi specializzato in quel settore e quindi nella cronaca, quindi è logico che sia il suo forte. Ma non possiamo neanche pretendere da Saviano che inizi a parlare di sanità o di strade di manutenzione. Beh, parla di tutto comunque Saviano, non è che sì, parla proprio poco, non è che si sia specializzato molto. Poco del resto, insomma, comunque mi sembra che i suoi argomenti siano particolarmente legati alla criminalità. Secondo me l'evoluzione della città è data anche e soprattutto dalle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono migliori delle precedenti, bisogna avere il coraggio di dirlo. Ecco, questo è interessante però, perché in effetti la parte più interessante del suo intervento è il fatto che lei adesso, se sia stato De Magistris o qualcun altro, a noi ci interessa anche poco, però sì, che sta dicendo che in realtà Napoli sta cambiando o sta provando a cambiare effettivamente. Napoli cambia perché i nuovi giovani napoletani sono molto più connessi con gli altri giovani europei e mondiali. Hanno spiriti di emulazione non solo culturali ma anche, se vogliamo, imprenditoriali, e questa cosa non fa altro che bene alla città. E guarda caso questa evoluzione si sta avendo da circa 15 anni, cioè dall'avvento di internet, che è un po' più diffusa. Credo che ci sia una maggiore coscienza anche dei propri beni. Se un giovane pensa che a Napoli ci sono delle risorse che possono dargli un futuro, sì, il giovane di oggi le sa sfruttare. Va bene, Luigi, è chiaro. Anche se bisogna dire a favore di Saviano che questo non toglie che diciamo la cronaca, il racconto, l'approfondimento su quello che non va a Napoli, su queste sparatorie che ci sono, sui disastri che ancora avvengono in quella città, non è che uno esclude l'altro, però è chiaro che il tuo punto di vista. Napoli salvata dai social. Esatto, se volessimo mettere una crocetta, in questo caso abbiamo uno De Magistris, uno Saviano, potremmo mettere più dal lato di De Magistris. Vediamo, Isabella da Napoli, buonasera. Ah, buonasera. Buonasera. Sì. Tutti da Napoli. Volevo sottolineare l'incongruenza della polemica sollevata dal sindaco, perché per me Saviano è uno scrittore che scrive come hanno scritto tanti altri nel passato. Significherebbe, non so, voler contestare Matilde Serao che ha scritto Il ventre di Napoli, oppure Curzio Malaparte che ha scritto La pelle. È impossibile questo, ma è lui, fa il sindaco, che deve dare a noi cittadini ragione della sua azione amministrativa. Va bene, Isabella, la salutiamo perché sentiamo malissimo, come se chiamasse da un sottoscala, non lo so. Davide da Forlì. Pronto, buonasera. Dunque, io volevo parlare della mia esperienza sul discorso dei voucher. Perfetto, vai. Io sono un libro professionista, a casa ci aiuta una signora rumena per fare le solite pulizie, ho anche una figlia che ha qualche problema di dislessia, quindi ho bisogno anche di un supporto per lei. Sì. E più o meno la tariffa oraria si aggira su 10 euro all'ora, quindi io ho pensato... Ma è la stessa persona che fa sia il corso di dislessia? No, sono due persone diverse. Perfetto. E ho pensato, mi pago, ho fatto la proposta, pago certo, il voucher, no, è così, sono più tranquillo io, è tutto più regolare, non se ne parla neanche, ragazzi, non perché? Se ne parla perché? Neanche, perché preferiscono averli 10 subito. In nero. Che 7,5. In nero, va bene, questo è un limite dei voucher, in effetti, cioè dei voucher, della mentalità di noi, e di noi, di noi tutti. Però ci dobbiamo fermare perché c'è il GR, ci risentiamo subito dopo. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Allora, cari ascoltatori, siamo di nuovo qua. Siamo di nuovo qua. Befana, oggi giorno di festa. Dove siete? In vacanza, in montagna? State pellegrinando tristemente nella vostra città abbandonata da tutti? State andando a cena, a festeggiare? Che state facendo? 800 24 00 24. Noi domani però torniamo con il programma, quello del weekend. Io infatti sono abbonato ai giorni festivi, sì, o semifestivi, perché infatti io ci sono sempre sabato e domenica, e anche oggi che è il 6 gennaio, Epifania. Con quel si può fare lì, eh? Ce l'abbiamo lo stacco tra un po', lo sentiamo? Sì, no, non ce l'abbiamo, ragazzi, non ci abbiamo lo stacco del programma di domani, però tra un po' tiratelo fuori che così lo sentiamo. Pasquale da Napoli intanto, buonasera Pasquale. Buonasera, il grandissimo Edoardo Bennato, la testimonianza che quando uno non si vuole fare pubblicità con i media perché è molto serio, quindi ha bisogno di dedicarsi ad altre cose. In ogni caso volevo dire, quanto appunto al sindaco nostro, c'è qualche giornalista in Italia, a Napoli, che gli chieda cosa ha fatto lui per il turismo? Io mi sono trovato ad avere a che fare con questo problema per un mio progetto che poi è andato in porto, e ho capito da persone del settore, specializzate nel settore del turismo italiano, che i turisti a Napoli vengono da qualche anno perché ci sono conflitti in Siria e nel Medio Oriente. Che c'entra, scusa, che c'entra? Non capisco. Sì, perché si tratta del turista definito da terzo mondo, disposto un po' a rischiare, che in passato andava in Medio Oriente, in Oman, in Yemen. No, è così, guardi. Sì. Questo è no, cioè, non mi puoi dire che i turisti che vengono a Napoli sono quelli che altrimenti andrebbero... No, in tutta Italia, a Napoli, no, che ritenuto è ritenuto una città un po'... non è quello, dice lei. No, però, nel senso cosa che è abbastanza divertente come teoria. Nel senso, in tutta Italia... No, ma non è una teoria, è un dato di fatto. È un dato di... Cioè, che anche a Bergamo c'è più turismo, perché la gente... Hai detto in tutta Italia, ha detto... Se mi fa parlare... Prego, prego. Napoli, che amo tantissimo, sono napoletano, certo, e per quello che faccio non lo dico per non pubblicizzarmi. Allora, io adoro Napoli, però dico che i turisti che ho capito, ho saputo da fonti certe, sì, che i turisti che sono definiti, non i turisti dei gruppi che a Napoli per varie difficoltà logistiche non possono venire perché i pullman non è colpa di Napoli, è l'urbanistica di Napoli. Allora, il turista definito da terzo mondo, cioè colui il quale viaggia in gruppetti, in coppia, in famiglia, che è disposto, infatti oggi si sentiva che alcuni turisti del nord Europa stanno continuando ad andare, sì, a Istanbul. Va bene Pasquale, però arriviamo a Napoli, arriviamo alla questione di Napoli. Lei allora, dice Napoli, c'è il turismo che cambia perché ci sono le guerre d'altrove, però parliamo di Napoli. Napoli, a torto o a ragione, sì, è stata vista sempre una città un po' pericolosa. Allora, il turista che a livello internazionale viene definito un po' da terzo mondo, adesso non potendo più andare in Siria perché è troppo rischioso, che il turista... No, ma è una storia stupenda, abbiamo bisogno delle fonti. Non è una storia, è una cosa... Ma abbiamo bisogno delle fonti, cioè che il turismo, lei sta dicendo che il turismo a Napoli in realtà sono tutti i turisti che non possono più andare in Siria perché hanno paura di morire e quindi... Una gran parte di tutta Italia, giusto? Ma infatti guardi che coincide perfettamente, perché da quando sono cominciati i conflitti civili, la guerra civile in Siria, e dei magistri si è sindaco peraltro, quindi forse c'è anche un legame tra queste due cose. No, cosa? Magari c'è proprio un legame anche tra il fatto che da quando sono cominciati i conflitti in Siria dei magistri si è sindaco. Ma non faccio il buffone, non sto dicendo questo. Anzi, guardi, anziché correggere l'italiano degli altri, badi al suo, perché noi... Ma io non sto correggendo l'italiano. No, l'ha corretto al mio precedente con cittadini. Io? Non si dice avvallare, ma avallare. Questa papera l'ha fatta poco fa, prima di correggere gli errori altrui. Ma io non ho corretto nessuno. Ma chi ho corretto? Scusi, a parte che avallare è chiaro che si dica avallare. Il suo collega Maurizio gli ha detto avallare, cioè avallare, non avallare. E io temo purtroppo l'aver detto Avana, ma comunque va bene. Io di papere nelle radio nazionali ne sento tantissime, quindi fate meno presuntuosi, non correggete quando non ne avete titolo. In ogni caso, io non volevo dire. Però allora finiamo. Mi fate finire. Pasquale, un attimo, Pasquale, facciamo un momento d'ordine. Allora, a me mi interessa questo ragionamento che sta facendo. Lei sta aspetta un attimo. Occhio di rame mia. Aspetta un attimo, Pasquale, momento, Pasquale. Allora, andiamo con calma. Questo ragionamento che sta facendo è importante. Stai dicendo che a Napoli c'è una crescita del turismo perché ci sono le guerre in Siria, quindi la gente non va lì ma viene di qua. Io quello che interessato. Non ha riassunto bene. No. Ecco, allora, riassumilo tu, però riassumilo in uno slogan perché voglio capire chiaramente. Molto semplice, nel turismo internazionale c'è varie tipologie di turista. Il turista che viaggia da solo, che è andato sempre a Firenze, è andato sempre a Venezia, perché non sono città per definizioni pericolose, ok? Adesso è molto, sia quello italiano che quello straniero, europeo, eccetera, è molto orientato a venire a Napoli, perché quel tipo di turista, perché ci sono vari tipi di turista, il turista dei gruppi, il turista degli anziani, quelli che vanno a Lourdes con i gruppi organizzati, allora il turista che viaggia da solo... C'è una parte di questi turisti mondiali che si è definito turista da terzo mondo, cioè con il quale è disposto a rischiare allora, un po'. Scusa un attimo, ragione, un po' pericolosa, vede questo afflusso, guarda caso, ma non è una tesi mia, sono specialisti. No, ma infatti voglio capire meglio però, Pasquale, un attimo, Pasquale, calma, Pasquale. Allora c'è una sottocategoria di turismo, secondo te, che è in crescita, perché c'è questa concorrenza tra località del terzo mondo. Però alla fine di tutto questo, a Napoli il turismo è in crescita oppure no? Voglio capire questo. Cosa? Alla fine di questo tuo ragionamento mi stai dicendo che a Napoli il turismo cresce oppure no? Cioè c'ha ragione dei Magistris o no? Che motivi siano la Siria o no? Cresce oppure no? È cresciuto tantissimo. Però io vedo tanti turisti che mi fotografano ancora la monnezza. Io abito qua, centro antico, ti divertono a guardare anche lo schippetto. Altro tema, Pasquale, la monnezza, i rifiuti. Perché De Magistris dice che lui ha risolto la questione. Non ha risolto nulla, ma sono diminuiti molto. Sono diminuiti. Però a me quello che interessa è che qualche giornalista chieda a De Magistris: lei che cosa ha fatto come politica per il turismo? Secondo me niente. Glielo chiedete così. Vabbè, perfetto, l'abbiamo intervistato parecchie volte. Quindi se io devo mettere una crocetta su Saviano De Magistris alla sua telefonata, dove la metto? Ma da nessuna delle due parti. Perché sono bravi nella pubblicità, insomma. Anche Saviano, Però quello che descrive Saviano è la realtà di Napoli o no? Io direi di sì. Quindi lei più Saviano che De Magistris? No, che più che Saviano. Ovviamente De Magistris è una brava persona, onestissima e tutto. Però secondo me non è all'altezza di questo grande sindaco che vuole pubblicizzare di se stesso. Ah vabbè, adesso De Magistris però è diventata una brava persona. E il turismo è aumentato. Perché prima ha detto che non lo era, non ho capito. No, sembrava perché sembrava come dire De Magistris dice che il turismo è cresciuto. No, un momento, Pasquale, fammi parlare anche a me, parliamo insieme. Allora, siccome tu hai detto che il turismo cresce, non è merito De Magistris. No. Siccome De Magistris dice di sì, allora si poteva concludere che secondo te De Magistris è un, come dire, è un mitizzatore, uno che strumentalizza. Ma è giusto che ognuno si faccia pubblicità, che c'è? Perché mi vuole far dire cose che non dire, è giusto. Ognuno si fa, tutti, ma perché le conosce qualche sindaco che non si fa una buona pubblicità di propri meriti o di meriti presunti? Ne conosce uno? In che quartiere abiti tu a Napoli, Pasquale? Io abito al centro antico, proprio nel buco del culo di Napoli. Oh, allora, l'ascoltatore di prima diceva che nel centro antico di Napoli, nei vicoli, c'è gente che muore. Che è tutto abbandonato. Che muore, questo lo dice la cronaca, non lo dice ogni tanto succede, quando succede, ma non è solamente ma nel senso che è tutto in abbandono, che è tutto in ritirata, che ci sono le buche per strada. Ne vuole sapere un'altra molto divertente? Sì. Ne vuole sapere un'altra molto divertente? Allora, Napoli è zeppa, cioè Via Duomo, che dovrebbe essere la strada più importante di Napoli. Io vedo, allora io sono stato in un'altra città, vedo che questi ragazzi neri, non sia mai dico negri, che qua il political correct impone. C'è bisogno dei radical, meglio non dire negri. Stanno anche a Barcellona stanno lì con i foulard, zeppi di borse, con le corde ai quattro lati, appena sentono che ci sta la polizia a 3 chilometri, scappano, sembrano Pietro Mennea. Qui a Napoli si addormentano sulle bosche e sanno che nessuno gli fa niente. Un signore prima diceva la criminalità non è competenza del... Benissimo, però i vigili urbani hanno la competenza di andare a dire voi che fate qua, che vendete queste borse, peraltro inquinano e fanno venire il cancro. Io non ho figli. Le borse fanno venire il cancro. Un momento, Pasquale, adesso ne hai tirata fuori un'altra. Le borse fanno venire il cancro? Sì, ma secondo lei chi le produce queste borse false nell'Interland di Napoli, che siccome stanno a nero non possono smaltire i rifiuti tossici e quindi fanno i fuochi, i fumi, cioè chi li fa? Ah vabbè, adesso, adesso abbiamo, adesso abbiamo queste borse da dove vengono, secondo lei? Vengono da lì. Cioè, è ovvio, il falso chi lo fa? L'impresa che è dichiarata, che sta in regola? No, lo fanno questi in nero, bruciano sti, i rifiuti tossici, li seminano i terreni e cioè, continuano a farlo ovviamente. E Napoli pulla di borse finte, di plastica fetente. Che lavoro fai, Pasquale? Possiamo sapere anche questo? Io attualmente insegno a scuola, ma ero avvocato e sono musicista, concertista. Vabbè, ma qua sei... cioè, scusa, non ho... insegni a scuola, ma sei avvocato e sei pure musicista. Insegno materie giuridiche. Ma tu stai sparando un sacco di balle, di' la verità. No, le balle no, se vuoi tra poco quando ho aggiornato il mio sito e i miei social ti chiamo, fai una bella visita e vedi io che strumento suoni, che strumento suoni. Sono un tenore chitarrista, un cantante napoletano classico. Un tenore chitarrista, sì. Doppio. E allora faccio un acuto di tenore, da tenore. No, che ti faccio, non facciamo buffonate. Quando sono pronto con i miei social... Voglio la riprova che quello che stai dicendo, guarda, è vero, almeno su una cosa. Allora, già l'ho fatta dal vivo con Cruciani, cantavo Era di maggio. Ah, vabbè, se allora, hai già fatto tutto, allora chiudiamo. Io me allora ne vado. Ciao. Allora, vado facciamo via. Una cosa: pasqualeangelo.com e vedete che cosa ho fatto. Va bene? Cosa sto facendo? Bruno Lauzi ha inciso ha prodotto il mio primo CD. Io volevo solo una canzone napoletana. Qual è la... faccio la prossima, mi preparo bene, io non sono uno improvvisato. No, è che non sai cantare, la verità è che non sai cantare, dai. No, vai sul sito e vedi che la verità è che non sai cantare, secondo me. Ciao faccio. Pasquale, auguri, grazie. Ciao, ciao. In my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Allora, questo giusto per ricordare che domani mattina riprende il Si può fare, quello del weekend, e invece da lunedì torneranno Giuseppe Cruciani e David Parenzo con La Zanzara a quest'ora su questi spazi e sempre e comunque. Allora, però, adesso abbiamo il nostro prossimo ospite, sì ce l'abbiamo, il nostro prossimo ospite è un imam e si chiama Youssef Sbai. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Allora, lei è stato, rido perché qua adesso la faccenda si fa interessante. Lei è stato selezionato dal Ministero della Giustizia per andare a insegnare agli agenti penitenziari italiani che cosa? Ce lo dica lei. Sì, ma prima soltanto per precisione, sì. Non sono stato selezionato come imam, ma sono selezionato come accademico. Come accademico, sì, perché lei tra l'altro... Come omologo, sì, perché faccio anche la ricerca con l'Università di Padova, sì, ma nello sì. stesso tempo sono religioso, sono praticante. Esatto, perché lei è comunque è un imam, credo, esatto, della moschea o comunque del centro culturale di Massa Carrara. Di Massa Carrara, sì, sì, della zona è un di imprenditore, è laureato, è un accademico, va tutto bene. Il Ministero della Giustizia l'ha selezionato per fare... Che cosa? Per tenere dei corsi, lo dico io, per tenere dei corsi agli agenti di polizia penitenziaria per aiutarli anche a distinguere e a capire se in carcere ci sono dei potenziali terroristi, cioè gente che si sta radicalizzando attorno alle tematiche dell'integralismo islamico. Così. Esatto, esatto, non solo questo, praticamente nelle scuole della polizia penitenziaria faccio dei seminari nei corsi di aggiornamento e della formazione che riguarda il pacchetto Islam. Il pacchetto Islam si parla praticamente della pratica religiosa, si parla di aspetti culturali di territori di provenienza di detenuti musulmani nelle carceri italiane, e poi si fa anche il dibattito con il personale carcerario per rispondere a delle difficoltà che hanno certe volte anche nella comunicazione o a decifrare certe volte il comportamento di questi detenuti. Grazie a questo sapere, a questa conoscenza, sì. Possono loro in questo momento decifrare se la pratica religiosa che stanno facendo è una pratica religiosa standard, tra virgolette, o può darsi che ci sono dei segnali o delle indicazioni di qualche deviazione o di strumentalizzazione, esatto, della religione. Perché il caso di Anis Amri lo ha dimostrato, questo attentatore di Berlino, che poi è stato ucciso a Milano, è stato per diversi anni nelle carceri italiane, in Sicilia, se non ricordo male. Quindi non è un caso isolato, cioè può succedere che nelle carceri italiane ci siano persone provenienti dal mondo arabo che stanno maturando un loro radicalismo e anche potenziali terroristi. Questo è così, perché altrimenti non l'avrebbero convocata, no, per far questo. Il fenomeno esiste in Europa, non sto parlando soltanto dell'Italia, esiste in Europa. Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno dimostrato che il fenomeno esiste in Francia molto di più, in Belgio e forse anche in altri paesi, anche in Norvegia. In Italia non abbiamo, per fortuna, questo numero grosso di persone che hanno il rischio della radicalizzazione, però non esiste il rischio zero, ecco, per quello che stiamo lavorando insieme al DAP, non soltanto in questa direzione o questa dimensione, stiamo lavorando con il DAP, sto lavorando con il DAP anche per una eventuale formazione di imam o di ministri di culto musulmano che devono venire dall'esterno delle carceri per prestare questo servizio dentro. Sì, perché maggiore... è successo già altre volte che altri imam sono stati espulsi perché per vari motivi, insomma, perché come quello di Treviso che ha rifiutato di giurare sulla Costituzione, oppure per esempio a Novara un altro imam che predicava odio nei confronti dell'Occidente. Ma questo riguarda appunto riguarda il ruolo di certi imam. Tornando alla questione del carcere, no? Esatto. Perché se lei deve insegnare agli agenti penitenziari in qualche modo a districarsi, la domanda che tutti si fanno è: come si fa a riconoscere se uno è un potenziale terrorista? No, ma prima di tutto queste cose che facciamo, seminari di formazione, non sono sufficienti per dare degli strumenti efficaci al personale per decifrare, per conoscere, per avere una lente di ingrandimento per capire il senso di un comportamento o la simbologia di un comportamento. Beh, non sono sufficienti. Ci saranno anche altre. No, non è sufficiente. Noi stiamo con questi corsi facciamo soltanto, costruiamo una base di conoscenza generale sulla pratica religiosa e certi aspetti culturali, certi comportamenti. Quindi dovrebbero studiare di più, in realtà. No, non studiare di più, ci vogliono delle figure professionali che sono già preparate per questo tipo di lavoro, per fare un'osservazione partecipante, per fare un dialogo approfondito, un'intervista approfondita. Ma dal suo punto di vista però, Youssef, io le voglio chiedere, dal suo punto di vista, se lei dovesse dire da certi elementi io posso capire se uno interpreta in qualche modo anche il suo attaccamento all'Islam in una maniera potenzialmente radicalizzante, integralista o addirittura da potenziale terrorista, quale potrebbe essere un posso avere delle indicazioni che noi chiamiamo. Questa indicazione può essere una interpretazione deviata di certi versetti del Corano. Noi conosciamo il Corano, conosciamo le sue interpretazioni, conosciamo come viene interpretato, quando si fa la discussione. Versetti che potrebbero istigare all'odio in qualche modo, sta dicendo. Sì, all'odio o alla violenza certe volte, Però mi scusi, è molto difficile per un agente penitenziario riuscire a capire se è un'interpretazione particolare di un versetto del Corano, può, no? No, non può, assolutamente non può. No. Appunto. Per quello che ho detto, che noi costruiamo la base di conoscenza, del sapere, ma alla fine sono le figure professionali che possono fare questo tipo di lavoro, quello di individuare o decifrare o leggere con i propri strumenti professionali quello che sta dicendo dicendo praticamente un po' come se fossero le bufale anche all'interno dell'interpretazione dell'Islam, cioè persone che interpretano l'Islam a modo loro e lo usano come base per poi di fare dichiarazioni violente. E uno dei problemi cardine proprio della deviazione è quella dell'interpretazione soggettiva del o di certi passaggi del Corano. Ma sono cose che si possono anche leggere, per esempio, sul web, sono cose che si possono sentire anche all'uscita di un centro culturale. Sì, se uno va su internet per cercare, li trova facilmente. Non trova difficoltà a trovare delle interpretazioni sbagliate o anche certe volte proprio un discorso religioso basato su un titolo, un'etichetta. Ma ci può fare un esempio, Youssef? Un esempio per capirsi? L'esempio ora che mi arriva, per esempio, quello di in un certo periodo della storia, durante la vita del profeta, c'era un conflitto tra due tribù, una tribù che era musulmana e l'altra tribù che non era musulmana. Il versetto del Corano parlava di un certo comportamento che devono fare i musulmani in quel periodo. Lo prendi in questo momento, la persona che vuole deviare, vuole strumentalizzare il versetto, prende quel versetto senza spiegare alle persone che non conoscono il Corano, che non conoscono quel contesto di 1400 anni fa, e utilizza quella frase, utilizza quella parte di una frase di un versetto. Io però vorrei sapere qual è quella frase, però le chiedo di rimanere in linea, dobbiamo fare le informazioni dai mercati finanziari, se può rimanere ancora con noi, poi ci dice esattamente quella frase, così capiamo esattamente dove si annida l'interpretazione. Così diventiamo tutti in grado di riconoscere un radicalizzato o meno. Esatto. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione. È con noi Youssef Sbai, rappresentante, ex vicepresidente tra l'altro dell'UCOI, imam di Massa Carrara da oltre 30 anni in Italia, ingaggiato dal Ministero della Giustizia per tenere dei corsi insieme ad altri docenti agli agenti di polizia penitenziaria per, tra le altre cose, cercare di interpretare, capire e anche di snidare eventuali potenziali terroristi di matrice islamica. Lei ci stava facendo un esempio molto importante di un versetto, una frase del Corano che può essere interpretata in un certo senso. Ci dice esattamente qual era quella frase? Si parlava di musulmani contro non musulmani. Il versetto diceva: voi credete, non dovete alliarvi ai cristiani, all'Islam, perché il vostro alleato è Dio, suo profeta, e i fedeli musulmani. Questo versetto, preso così proprio come pacchetto, è usato in qualsiasi contesto. Ecco, come può essere usato male? Diciamo per estremizzare una lotta, un contrasto? Può essere usato in questo periodo in quale noi viviamo per togliere qualsiasi rapporto di amicizia tra musulmani e cristiani. Tra i musulmani e tutti gli altri, non soltanto i cristiani o gli ebrei, ma tra i musulmani e tutti gli altri. E questa strumentalizzazione può nascere anche dentro il carcere. E questo potrebbe essere un segnale, che un indicatore che dice che quella persona comincia a radicalizzarsi. Certo, se uno in qualche modo all'interno di una preghiera, di un sermone, di una discussione riesce con questa interpretazione del Corano, lei che conosce il Corano può dire: guardate, attenzione, che quello non è un semplice fedele, fra l'altro si può anche capire, cioè ci si può anche arrivare col buon senso, però è un'indicazione di come si stia in qualche modo tirando per la giacchetta il Corano per fini di lotta, di guerra, di terrorismo. Lo sappiamo purtroppo, ahimè, benissimo. Si può arrivare con il buon senso, ma con limite, perché la persona che non conosce la religione potrebbe anche capire che questa è una regola proprio fissa di musulmani che devono comportarsi così per sempre. Perché ecco, l'interpretazione corretta qual è? Che non c'è questa inimicizia tra musulmani e non musulmani, non ci può essere, o sì? No, assolutamente no. Noi dobbiamo capire che il Corano è stato rivelato in un periodo di 23 anni, in questi 23 anni sono successe tante cose, sono successi tanti avvenimenti, certe volte di pace, certe volte di guerra, certe volte di benessere, certe volte anche di fame, e il Corano troviamo un po' di tutto di questi periodi. Uno che non capisce, che non ha studiato le scienze religiose che le permettono di conoscere queste particolarità, non sarà mai in grado di interpretare in modo corretto un versetto. Però magari, ha incontrato un cattivo imam e quindi che gli ha tradotto molto male questo versetto, però lui non è radicalizzato, ma semplicemente ripete quello che gli ha detto, come se qualcuno di noi ripetesse qualcosa che gli ha detto il prete. Sicuramente, però non è che non possiamo neanche dire che non è radicalizzato. Lui è radicalizzato senza saperlo in questo caso, ma la radicalizzazione o la deviazione o la strumentalizzazione della religione esiste già e la deviazione c'è. Il problema è quello lì. Abbiamo il caso anche dei colleghi dell'Università di Bruxelles che hanno negli ultimi anni indagato su degli adolescenti, sì. E questi adolescenti certe volte sono radicalizzati senza saperlo, si sono trovati dentro la radicalizzazione inconsapevolmente, non sapevano neanche. Però quella non è vera radicalizzazione, nel senso che credere delle cose sbagliate non è automaticamente il fatto di essere radicalizzati, nel senso che è come se qualcuno dicesse che masturbarsi rende ciechi, e allora che effettivamente è una fregnaccia che viene raccontata dai preti, però non è che vuol dire che io sono radicalizzato, vuol dire semplicemente che sono ignorante, che mi hanno insegnato male una cosa. Questi casi ci sono. Giusto. Se non vogliamo chiamarla radicalizzazione in questo caso, no? Sì. Non chiamiamola radicalizzazione, gli diamo un altro nome, però la deviazione c'è, il pericolo c'è. Ecco, però questo è importante, no? Perché non chiamiamola radicalizzazione, chiamiamola come vogliamo, ma il caso di Anis Amri, che aveva dato questi segnali, era stato fra l'altro arrestato, era stato in carcere, è stato monitorato, quindi il problema non è solo identificare, io credo a questo punto, ma è anche poi agire in qualche modo, cosa fare. Esatto. Secondo lei, le chiedo la sua opinione, qua non c'entra nulla il ruolo di imam o di docente al corso di agenti penitenziari, ma cosa bisogna fare con qualcuno che manifesta questa radicalizzazione? Bisogna espellerlo senza se e senza ma, o bisogna mettersi lì a discutere? Perché qua è un po' il punto, no? Non la questione è molto complicata, perché non possiamo dire non espellerlo, ma per esempio il caso che mi ha citato ora, si è trovata una difficoltà amministrativa tra l'Italia e la Tunisia per fare l'estradizione. L'estradizione c'era, però la Tunisia non ha dato una risposta nei tempi giusti per eseguirla. Allora il problema è quello, nel caso in cui l'estradizione c'è, però non si sa dove estradirlo perché non è sicuro la sua provenienza. Però la sua opinione è che bisogna estradarlo, bisogna scacciarlo uno così. Sì, però una volta che c'è la difficoltà, secondo me è meglio avere un programma di deradicalizzazione di queste persone. Perché anche nel caso, se fosse italiano, finisce di scontare la sua pena e esce radicalizzato dal carcere, in quel caso diventa un pericolo per tutti. Per quello che io dico a tutti, se noi possiamo fare un programma di deradicalizzazione di questi soggetti, sarà la soluzione migliore, perché non dobbiamo lasciare una persona radicalizzata uscire dal carcere libera e circolare liberamente nella società. È molto, molto pericoloso. Ma lei ci crede in questa deradicalizzazione? Sì, ci credo, perché c'è un programma in Belgio che è stato già fatto, ha dato delle buoni risultati, un altro progetto in Marocco che ha dato buoni risultati positivi, e ci credo, sì. Va bene, grazie Youssef, grazie per essere stato con noi. Noi volevamo semplicemente dare questa notizia e parlare con questo imam per capire in che modo cercherà di aiutare gli agenti di polizia penitenziaria, così come indicato dal Ministero della Giustizia. 800 24 00 24, cari ascoltatori, anche su questo, se volete, siamo qua ancora per un po' per farvi dire la vostra. Andiamo con chi andiamo? Marco dalla provincia di Torino, buonasera. Sì, buonasera, sono Marco. Buonasera. Buonasera, volevo fare un intervento sui voucher. Prego. Nel merito che, secondo me, significa riconsegnare una quantità importante di lavoratori al nero assoluto, perché io faccio il professionista, già con la storia delle partite IVA sugli studi professionali ci sarebbe un capitolo da aprire, false partite IVA e via dicendo. Il voucher in tante realtà poteva essere quella possibilità di dare un lavoro a qualcuno, un piccolo lavoro ovviamente, che però male in tante famiglie non fa, senza avere degli oneri che molte volte non sei in grado di supportare economicamente come micro realtà imprenditoriale piuttosto che professionale. Sì, è così. Quindi il voucher secondo te si può salvare dalla sua estremizzazione, dall'eccessiva liberalizzazione, eccetera? Assolutamente sì, è uno strumento importante, perché diversamente ci sarà una pletora di personaggi che tornerà assolutamente al nero. Io ricordo, ho 50 anni, ma quando facevo il liceo il mio professore di lettere ci ha fatto fare un tema con il cui titolo era l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro nero. Parlo di ben più di 30 anni fa. Quindi il sì, tema sì, ma non è una novità. È ricorrente, non è una novità ed è però un leitmotiv di tutto questo periodo, no? Va bene. Allora, grazie Marco. La mia visione. Grazie. Buona a voi. Serata. Grazie mille. Torniamo dalle parti di Napoli con Luigi della provincia di Salerno. Pronto? Luigi, prego. Pronto? Eccoci. Pronto? Qua. Sì, ti sentiamo. Pronto? Luigi. Ah, ok, grazie. Niente, io volevo raccontare un po' la mia esperienza napoletana, nel senso che io ho studiato a Napoli per 5 anni nella facoltà di giurisprudenza. E praticamente la mia è stata un'esperienza favolosa, nel senso che io di Napoli me ne sono innamorato, sono stato bene a Napoli. C'è da dire che ho avuto problemi perché mi è capitato di trovarmi in situazioni spiacevoli, però voglio dire, purtroppo. Ma tu quanti anni avevi? Quando studiato a Napoli? Sì, io adesso sì. Ho 27 anni, quindi dai 22-23, perché poi mi sono spostato sì. Lì. Quindi il periodo universitario, quindi facevi gli ultimi 5 anni, facevi l'università, avevi 22 anni, stavi bene, che te fregate dei problemi del mondo, cioè sei stato bene a Napoli perché sì. Questa cosa mi dà molto fastidio, se sì. Permette sì. Io Napoli l'ho vissuta, io ho visto il centro storico ma voglio dire, l'hai vissuta bene, però era anche un periodo bello della tua vita, quindi è naturale. Certo, ma il periodo bello della mia vita vuol dire anche camminare la sera sì. E trovarti dei motorini che ti sprecciano a fianco con persone sopra che sparano con colpi di pistola in aria. Ecco. No, perché tu hai detto che andava tutto bene, che era tutto bello, quindi ogni tanto sì, succedeva anche qualcosa. Nel senso che il problema non è, cioè il problema sussiste, ma non sussiste soltanto a Napoli, il problema è ovunque, a Milano, a Torino. Ma questo però sinceramente stiamo parlando di Napoli. A Milano succede raramente che in motorino ti sfreccino di fianco e sparino. A Torino e a Milano succede certo. Senti Luigi, tu sei stato a Napoli, parla per Napoli, io sto a Milano, ti posso dire che a Milano questa cosa non succede normalmente, non diciamo cose che non sono vere. Non succede normalmente, ma a me è capitato una volta in 5 anni. Ah, appunto. A me mai in dieci e allora forse non succede. Il turismo non ha paura di questa Napoli. Il turismo non ha paura di questa Napoli. Il problema è strumentalizzare questa Napoli. Quando i giornalisti e chi per essi vogliono strumentare. È colpa dei giornalisti, ho capito. Siamo sempre noi. Va benissimo, Luigi. È migliorata secondo te Napoli qui negli ultimi anni? È migliorata. Le buche rimangono perché le buche rimangono, ma è migliorata Napoli. Il turismo non ha paura di questa Napoli. Cioè, metto la crocetta sotto De Magistris o sotto Saviano in questo caso? No, sotto De Magistris, anche perché Saviano, permettetemi, non è da biasimare. Lui non fa altro che raccontare ciò che la gente sa. Cioè non ci porta nulla di nuovo Saviano, non fa altro che arricchirsi, tra virgolette, su tutto ciò che la gente già conosce. Vabbè, grazie. Ciao Luigi, ciao. Ciao. Da celebrare, non è che celebriamo né Saviano né De Magistris, siamo fuori da questo. Adesso siamo con un'altra notizia, che però è una notizia che ci fa piacere, riguarda la Calabria. Siamo al sud, quindi in qualche modo... E il New York Times, diamo una mano al sud. Allora, accade che, come sempre, noi non ci crediamo molto in noi stessi, nelle nostre possibilità, e in questo caso è il New York Times che inserisce a sorpresa la Calabria come unica meta italiana da visitare nel 2017, tra tantissime ci sono c'hai la classifica sott'occhio, le Maldive, tantissime cose belle da vedere, prima del Kenya, per esempio. Prima del Kenya. E tu ridi perché? Perché ci sono appena stato. Dovevi andare in Calabria. Dovevo assolutamente andare in Calabria, è vero, hai ragione. E allora? È che sogniamo di fare il bagno a Capodanno, giustamente, fin da piccolo. Cosa ci sarà in Calabria da scoprire? Ma sicuramente lo sappiamo già, c'è che si mangia bene, ci sono tante cose bellissime da vedere. Insomma, New York Times celebra è una notizione la Calabria. Perché l'unico posto, mi sembra, fino l'anno scorso, 2 anni fa, c'era Milano in questa classifica, immagino semplicemente per Expo, invece adesso l'unico posto. posto italiano è la Calabria. E allora noi abbiamo scelto di parlarne con Luca Abruzzino. Ciao Luca, buonasera, benvenuto. È uno chef. Ciao, lui. Buonasera. Buonasera. Chef al ristorante Antonio Abruzzino, alta cucina locale. Tu hai fatto il ristorante, in realtà credo che sia dei tuoi genitori. Corretto. Sì, il ristorante è stato aperto dai miei genitori 8 anni fa. Sì. Poi tu hai fatto esperienze all'estero, hai lavorato in vari ristoranti di altissimo livello. Sì, ho iniziato a lavorare al ristorante qua di famiglia e poi sono stato un po' in giro in Italia e all'estero. Poi hai deciso di tornare in Calabria. Eh sì, per forza. Prima che il New York Times dicesse che è la meta più bella del mondo, naturalmente. Tu ci hai creduto davvero? Sei uno dei motivi forse per cui la Calabria, perché lo diciamo, il New York Times parla di Calabria soprattutto per la questione del mangiare gastronomica, anche perché è una vecchia storia degli americani che si lamentano, che dicono che in Italia non ci sono più le trattorie con le tovaglie a scacchi, che per loro sono un po' l'unica immagine del ristorante italiano. Voi avete le tovaglie a scacchi? No. Assolutamente no, però sì. Qua si mangia sicuramente bene, ma c'è tanto altro da vedere. Perché tu hai un ristorante di alto livello a questo punto, diciamo, no? Hai avuto anche una stella Michelin, o sbaglio? Sì, esatto, nel 2013. Quindi insomma, adesso non so, per mangiare lì da voi quanto si spende? Ma in media 60 euro, 65 euro. Vabbè, però, insomma, per il turistone americano ci sta. Per l'abbonato del New York Times non è un problema. Non si sconvolge di fronte ai 60 euro. E poi per l'alta cucina, l'alta qualità va benissimo. Dove siete? In che zona siete della Calabria? Noi siamo a Catanzaro, in una periferia di Catanzaro tra la zona mare e il centro città. Si chiama Santo Gianni il quartiere. Perfetto. Senti, ma te lo aspettavi che il New York Times scegliesse la Calabria come meta tra le 52 mete assolutamente da visitare nel 2017? E poi con tanti altri posti veramente splendidi. No, non ce l'aspettavamo e è stata una sorpresa bellissima, anche se conoscendola so i posti meravigliosi che ci sono qui in Calabria, però Per esempio, facci un po' un piccolo ripassino, momento proloco. La Calabria è bella perché c'è sicuramente il mare che è fantastico, i prodotti della nuova gastronomia che sono eccezionali, poi se si vuole in inverno c'è anche la montagna, bello. L'estate, quindi cioè, oggi per esempio sta nevicando quasi... In Sila parliamo? In Sila sì, ma oggi addirittura è arrivata la neve in collina. Quindi vabbè, che sta nevicando, c'è freddo in tutto il sud. Sì, al sud sì, molto. Ma senti, moltissimi parlano di quanto si mangia bene in Calabria, che ci sono dei posti straordinari, ed è tutto verissimo. E ci sono altri, o a volte anche gli stessi, che dicono però mancano i servizi, quindi siamo penalizzati, il turismo è penalizzato perché ci sono meno servizi. Questo purtroppo è l'unica pecca. Infatti, è un po' vero, infatti la mia preoccupazione è proprio questa, che o adesso siamo esposti un po' troppo alla gente, rischiamo di fare delle figuracce. Cioè, quindi... dici, una volta che ci fanno questa pubblicità arriverà tanta gente, rischiano di dire ma cosa si sono bevuti al New York Times per mandarci in questo posto abbandonato da Dio e dal mondo? Perché a volte in certe zone della Calabria capita di avere questa sensazione. Speriamo che non sia così, speriamo che nel frattempo corra ai ripari e si faccia qualcosa. Speriamo che la gente inizi a capire che si debba fare qualcosa, perché siamo una regione che può vivere di turismo, quindi speriamo che la gente lo inizi a capire. Però scusa, quando si dice mangiar bene, no? Perché se io penso a Napoli, mangiar bene, pizza, spaghetti, naturalmente il timballo, se uno vuole proprio andarsi a cercare delle cose così particolari, a Roma ci sono abbacchio, trippa alla romana, mi vengono in mente dei piatti, ma in Calabria si pensa solo al piccante. Qual è il piatto invece, un piatto tipico bello? No, ma il bello della Calabria è forse questo, che non abbiamo realmente dei piatti tipici conosciuti, sono più che altro dei piatti locali, ma è bella la Calabria, è bello mangiare in Calabria perché ci sono dei prodotti genuini buonissimi e ancora oggi c'è il contadino dietro casa che ti fa assaporare magari le verdure realmente biologiche, sì, senza tante sponsorizzazioni o per forza, cioè da noi ancora l'agricoltura si fa alla vecchia maniera. Il pesce è buonissimo, la carne è buonissima, quindi non penso che ci debba essere un piatto per assaporare. Il tuo piatto nel tuo ristorante, c'è un piatto particolare che proponete? Il vostro piatto forte qual è, all'alta cucina? Ma ce ne sono tanti, quello che mi piace di più è un ricordo che avevo da bambina del dolce panno di zucchero. Dolce? Quindi un dolce pane, olio e zucchero, quindi un dolce fatto solo con questi tre ingredienti. Pane, olio e zucchero. Ah. Sì. Io mangiavo pane, vino e zucchero, ero fuori, fuori ricetta. Io pane, sale e zucchero in realtà, cioè delle fette di pane, cioè, pane con l'olio. Olio e sale. Esatto. Hai detto sale e zucchero. Qua era, invece era... dello zucchero il sale, scusa, ho sì. sbagliato. Pane, olio e sale. Quando era la merenda dolce era pane, olio e zucchero, quando era la merenda salata era pane, olio e sale. Cioè la stessa cosa poteva andare bene in un caso o nell'altro. Beh, ma è quella, molto cioè, pratico. Il tuo dolce è quella, è una fetta di pane con su dell'olio e dello zucchero. È rivisto, no? Tipo c'è un caramello salato, un gelato al pane. Anche perché sennò non è che poi la puoi mettere a 60 euro questa, perché no, è l'unico piatto che so fare anch'io. No, infatti no. Va bene, complimenti a te. Grazie. Abruzzino, Luca Abruzzino del ristorante Alta Cucina Catanzaro, ma naturalmente a tutti i calabresi per questa piccola menzione che vi siete meritati nel New York Times. E vabbè, insomma, a suo modo era una notizia anche questa. 80024 si può fare. 0024, un bel si può fare. Sì, sì, sì, infatti. Allora, andiamo con Renato da Napoli. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora qualche minuto. Vai Renato. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo un attimo inserirmi non sulla polemica tra De Magistris e Saviano, bensì? Perché è una cosa diciamo che interessa molto poco. Giusto. Volevo soltanto dare un giudizio per quella che è l'opera del nostro sindaco, che è una persona, a mio giudizio, completamente inadeguata a gestire le problematiche della mia città. In quanto? Non ha saputo risolvere il problema della mobilità. Non ha saputo risolvere il problema della, diciamo, della spazzatura come lui dice di averlo risolto. Io abito in un quartiere periferico di Napoli, sì. E pago gli stessi soldi della spazzatura che pagano lì al centro, al Vomero dove lui abita. Sì. Domando, per quale motivo? No, mi dica lei però per quale motivo invece dovrebbe pagare diversamente? Perché il servizio è più scadente? No, io non voglio pagare diversamente. Però voglio gli stessi servizi, esatto, che hanno gli quindi mi sembra molto giusto. No, mancava questa parte del suo ragionamento, Renato. Noi non viviamo a Napoli, non sappiamo com'è la situazione della spazzatura al Vomero, allora, o nel suo quartiere. Ce lo dica lei. Allora, io dico questo, De Magistris sarà anche una brava persona, però è completamente inadeguato a risolvere i problemi della cittadinanza. Tutto qua. Ma sul turismo invece come la mettiamo? Cioè, sono di più o sono di meno i turisti? Ma bisogna capire che cos'è il turismo a Napoli. Giusto. Il turismo a Napoli c'è sempre stato. Sicuramente oggi in virtù di una, diciamo una propaganda di turisti ce ne sono un pochino di più, ma che la tipologia, la qualità di questo turismo io vorrei capire qual è. Perché se è un turismo diciamo di mordi e fuggi automaticamente e che non lascia nulla. Vabbè, questo è possibile. Beh, quindi sul turismo, l'ultima cosa sui rifiuti invece, perché lei ha detto una cosa che nel suo quartiere, lei in che quartiere sta? Io abito a Pianura. A Pianura. E lì la situazione dei rifiuti qual è? Ci sono cassonetti strapieni? Ci sono problemi? Non ne parliamo proprio. No, me lo dica però, ce la descriva un attimo, sì. Ci faccia visualizzare. Allora, per quanto concerne per capire, perché De Magistris dice che è migliorato il problema dei rifiuti a Napoli, che era drammatico all'epoca, questo bisogna dirlo. Si fa una propaganda. No, vabbè, ma ci parli del suo quartiere. Anche sì. Renato, ci dica quello che non va nei sti cavolo di rifiuti nel suo quartiere. Allora, innanzitutto nel mio quartiere, come le dicevo, abbiamo il problema della spazzatura. Il problema delle strade che sono completamente dissestate. Va bene, la spazzatura non vuole parlare. Renato, arrivederci, grazie, buona serata. Abbiamo capito, però io le faccio tre volte una domanda, provi a rispondere, se no così. Davide da Roma, vai. Salve, allora io sono di Napoli, sì. E vivo a Roma ormai da 3 anni, però a Napoli torno spesso e la conosco benissimo. Allora, il punto è questo, con De Magistris è cambiata la questione dei rifiuti, nel senso che il centro non è più invaso da montagne di spazzatura, però la periferia piange per i vari problemi legati non solo ai comuni ma anche all'illegalità diffusa. E poi ultimamente purtroppo questo siete anche in centro con i fenomeni insomma degli ultimi giorni. Io chiamavo più che altro perché nella questione De Magistris Saviano ha perfettamente ragione Saviano, cioè bisogna dirlo, il problema c'è e soprattutto il sindaco fa questo storytelling della città piena di turisti con il sole, il mare, sì per carità è vero, ma non fa bene alla città, bisognerebbe dire le cose come stanno, semplice. E come stanno? Le cose fanno che si sparano in pieno giorno, 4 feriti, una bambina anche, e niente, poi si dice, e vabbè, ma Saviano, vieni qui, mangiati un'emozione, vieni a vedere. Vabbè, come allora, funziona. Crocetta sotto Saviano, in questo caso alla fine finisce con un pareggio, più o meno, tra i due. Grazie a questo ascoltatore, Davide, noi vi salutiamo a tutti, ci risentiamo domani mattina, fra poche ore siamo di nuovo qua in diretta 7:30-10, con Si può fare quello del weekend. Grazie ancora a Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Giorgio De Luca, Matteo Ramelli, Andrea Roccabella in regia, questa volta non lo sono ricordato, ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, a domani.